Ben ritrovati per la seconda parte di 451 frammenti sonori, dedicata così vagamente, come d'altronde tanti temi che trattiamo qua da queste parti, primitivi di nuova sensibilità, temi vaghi che cercano di esprimere un'attitudine musicale o degli atteggiamenti che questa sera stiamo ritrovando, ad esempio in X04, in Factums, negli storici Chrome, negli storici, ma con una nuova uscita, Marco Hurtado e Alan Vega, e ora con Savage Republic. L'abbiamo ascoltati alla fine della prima parte, in questo inizio della seconda, storica formazione americana, californiana. Si inventarono un termine per definire le loro musiche, trans music, e tutta la scena di Los Angeles legata a loro si rifece a questo suono tribaloide tra psichedelie, tra epicità la Ennio Morricone, tra reinvenzioni western, un senso del rock spinto chiaramente verso altri lidi non per forza legati all'avanguardia in senso stretto, ma sicuramente a un altro modo di intendere le musicalità rock, e che per molti versi ha gettato dei ponti fondamentali per il futuro, come ad esempio quelli che portano da Savage Republic a Ensemble Economique, o stampano per la Non Fan Record, quindi una delle etichette più interessanti di questi anni, legata a Carlos Giffoni, per tanti album e pezzi passati qua a 451, non dobbiamo altro che ringraziarlo, ma non solo, visto che poi appunto riesce anche a veramente a produrre cose notevolissime. Questo Ensemble Economique si rifanno appunto per certi versi a Savage Republic, ma anche a modo di intendere il rock spostato verso il synth, che va a ricercare una sorta di kraut rock, come già certi Savage Republic, però magari un po' più spinto in termini di elettronica, seppure dentro le decostruzioni o le costruzioni epicheggianti di Savage Republic c'erano già degli echi che sicuramente portavano agli storici tedeschi, che muovevano già le prime avvisaglie di quel suono primitivo che si sarà poi portato avanti tanto da certa new wave, tanto da certa industrial music e tanto da certo neoconcretismo musicale che ci ha portato fino ai nostri giorni, e che ci porta appunto dentro l'universo sonoro dei nuovi noiser americani, come anche Ensemble Economique, straordinariamente produttivi dentro le loro musiche, che forse rispetto alle cose messe fino adesso trattano la faccenda primitiva con un senso di pulizia che però diciamo dà quel tocco alienante, quel senso di smarrimento e di spostamento, anche una sorta di musica che ci fa perdere, e in questa perdita ci tuffiamo, come dire, un segnale che proviene da lontano e che ci porta altrettanto lontano con Ensemble Economique. We'll be right back. echi di tribalità curate, o forse per dire meglio malate, dentro sonorità di synth preponderanti che, come dicevo prima, si rifanno tanto all'epica drammatica e catastrofica di Savage Republic, come certe sonorità decisamente horror e alienanti che possono ricordare un certo John Carpenter spinto fino all'inverosimile, un'urbanità che viene traslata attraverso appunto una lontananza tribale che attraversa quasi tutto il disco di questo giovane ensemble economic, che con Physical mettono un segno anche sulla nuova esperienza di synth e synthetic group che si stanno cibando appunto di musicalità che provengono da tanto lontano, ma non soltanto in termini storici, un po' come abbiamo provato anche alla fine degli anni della prima parte, appunto recuperando la fine degli anni 70 e i primi anni 80, ma anche proprio a una attitudine decisamente primitiva che rade al suolo molte delle costruzioni anche del rock o pararock che lega vagamente queste figure nuove che si rifanno tanto al kraut, come tanto a immaginari e definitivi e appunto apocalittici, ma dentro queste poi distopie c'è anche un senso decisamente beffardo e anche del gioco che, seppur indirettamente, attraversa buone parte delle formazioni che anche questa sera stiamo trasmettendo. Certo, è un gioco ammorbato che probabilmente porta più verso esiti insomma drammatici, ma questa drammaticità è quasi misurata da un senso della strategia che comunque viene attuata. C'è quasi un disegno a tavolino di portare all'estremo certe musicalità, recuperare appunto anche un suono tribaloide che a volte si fa anche veramente assurdo, come in tanti pezzi di Ensemble Economique, ma anche di X04 ascoltati prima, e soprattutto con Factums si arriva veramente anche quasi alla presa per il culo certe volte, voluta e divertita e divertente, se non fosse insomma per masochismo musicale, che comunque 451 sempre accompagnato, si potrebbe proprio trattare di tale sensazione se si sposta semplicemente il punto di vista o l'orecchio musicale verso appunto sonorità differenti rispetto anche a varie tetraggini e musiche dark che comunque hanno attraversato anche con un certo successo qua il nostro paese. E qua si fa veramente anche un po' giocosa la faccenda, seppur appunto sottolineo è un gioco piuttosto macabro, con Ethenor non a caso ho tirato fuori il termine dark, o forse ancora meglio black, come il loro metallo da dove partirono qualche anno fa per una delle esperienze più eccitanti dell'Europa musicale altra. Ethenor, che tra l'altro qualche settimana fa sono stati anche in Romagna per un concerto decisamente notevole, partendo da una musica che volutamente, insistentemente anche si è voluta ignorante, nel senso di andare a trovare e recuperare proprio l'insulso più insulso degli anni Ottanta, ovvero il black metal di Venom, di Death, di gruppi insomma che soltanto un pubblico decisamente metallaro e anche estremo in questo senso recuperava o che ricordava, sia Eterno che KTL, come anche Sanno, hanno invece proprio preso queste formazioni, come d'altronde poi ad esempio i Wall of Eyes per certe assurdità di riferimenti come ad esempio Manowar, si è recuperato proprio irrecuperabile in sostanza e si è portato a un estremo che penso che anche gli stessi probabilmente protagonisti dell'epoca non pensavano di poter neanche arrivarci minimamente, se pensiamo appunto a certi album di Venom portati all'esasperazione, portati a un grado zero, in questo senso veramente quasi fatti arretrare, fatti diventare una sorta di tabula rasa primitiva, e quindi facendo anche uscire quel lato sperimentale che la in nuce Ethnor sono riusciti a creare nuove musicalità da meandri assolutamente oscuri, e così facendo hanno comunque anche ribaltato una faccenda grossa che appunto era relegata a musiche assolutamente marginali, ne hanno fatte diventare musiche di grande fantasia e di una certa anche astrazione musicale, quasi jazzistica in alcune parti, se pensiamo ai primi esperimenti di Ethnor di 4-5 anni fa, fino ad arrivare all'album del 2011 che adesso andiamo a ascoltare. Veramente c'è un iter sperimentale assai interessante, che chissà dove porterà i nostri, che per il momento veramente tendono a creare nuovi immaginari sonori anche di una certa potenza, quindi non rinnegando insomma a quel tratto brutista che proviene appunto dal recupero del black metal. Ethnor. Thank you. Thank you. la psichedelia come poteva essere sognata da un uomo primitivo, ovvero Altar Eagle, splendida formazione neonata che riprende sia i voli lisergici di buona parte delle varie psichedelie che conosciamo bene, che immagino anche conosciate, siano tra le musiche preferite che spesso passeranno dalle vostre case o perlomeno dalle vostre menti, che vagamente e anche così in maniera piuttosto fascinosa si tuffano dentro i mari, i mare magnum del sogno lisergico, acidi, appunto, questi Altar Eagle che però insomma portano a una sorta di astratizzazione l'idea psichedelica e ne fanno veramente una sorta di sogno, però dentro veramente un suono che ricorda più l'eco di una caverna, i riverberi che si possono sentire attraverso il fuzz chitarristico di Altar Eagle danno l'immagine di un sogno lisergico, però che evidentemente è tratto da anfratti, da posti insomma piuttosto oscuri, come buona parte insomma della discografia, della poca ancora discografia di Altar Eagle, si nutre di questi turbamenti, quasi di questa ricerca di sonorità scure che però vanno a impattarsi poi con strani, appunto, stranissime, anzi, divagazioni oniriche che appunto ci rimandano tanto alle psichedelie come anche a un certo drone più cattivo o più industrial, come quello ad esempio di Lastmord, un mondo insomma che incrocia varie attitudini comunque insomma legate a una sorta di inacidimento, si potrebbe dire, della materia sonora, che comunque appunto non disdice anche una sorta di armonizzazione tutta loro, molto singolare per Altar Eagle, come d'altronde per i francesi High Gulf, che stanno diventando sempre più famosi, ovviamente della fama qua si tratta, ma di una fama piuttosto ristretta, diciamo più di culto che insomma conosciuti al grosso pubblico, se ancora esiste questo grosso pubblico, e mi rifaccio appunto alle prime parole di questa serie di 451, alla frammentazione del mercato musicale, ma delle stesse musiche che non sono più alternative, ma sono veramente tante, variegatissime, dentro un mare magnum che si ripete non soltanto per il sogno psichedelico, ma anche per delle ricerche affannose che si rifanno dentro appunto una infinità di uscite, di produzioni, di CDR, di LP, di cassette tornate, e Eternor come Gulf, come altri che spesso passiamo qua a 451 frammenti sonori, si rifanno anche a questa tipologia, a questo modo di atteggiarsi musicalmente, veramente fare una sorta di musica estemporanea, data appunto per quello che è, una improvvisazione radicale anche in termini di registrazione sonora, spesso con brutimenti legati a microfonazioni anche così create lì sul momento. Ai Gulf anche in questo senso si rifanno, o per meglio dire si collegano agli americani amici di 451, Neonoiser, con però un senso di affinità sicuramente profondo con Altar Eagle per Viaggio Cosmico fiancheggiante o un cosmo che comunque viene quasi ricercato dentro, uno specchio tra esterno e interno che rende veramente molto fascinose sia le musiche di Alta Rigola. In questo caso ce le andiamo a sentire appunto proprio in questo momento, proprio i nostri High Gulf, o per meglio dire i francesi High Gulf. Thank you. una pace statica, come Static Peace, storica etichetta, oramai diventata storica per produzioni di questo tipo. I Wolf in realtà ora approdano alla No Fun Record, e appunto prima la citavamo per quanto riguarda Ensemble Economic. Citiamo appunto in continuazione Carlos Giffoni negli ultimi due o tre anni, perché sta facendo veramente cose notevolissime anche in termini produttivi, in termini di ricerca di gruppi musicali che si muovono in maniera nuova. Questa sera lo stiamo declinando in termini primitivi, appunto primitivi di nuova sensibilità, ma si potrebbero veramente declinare in tante maniere. Forse il termine, insomma, che la accomuna a tutte quante le formazioni della No Fun è nuovo e sperimentale, parola che di questi tempi, se sperimentale insomma viene usato così in maniera un po' non sempre corretta, ecco, mettiamola così, sicuramente per quanto riguarda nuovo invece è una parola quasi spaventosa, terrificante, visto che insomma il lascito della postmodernità e quindi tutto il suo carattere, il suo pensiero legato a questo eterno presente ora dinanzi a noi, forse fa apparire insomma perlomeno inquietante la parola nuova. Poi invece ci sono declinazioni come nuove anche di cose che provengono e hanno una diramazione anche piuttosto chiara dentro I Wolf, che abbiamo ascoltato sia da una splendida compilation insieme a Altar Eagle, sia con Shangri-La che abbiamo ancora in sottofondo. Sicuramente il riferimento sonoro e l'attitudine quella di un suono cosmicheggiante, di certe ricerche di synth music minori o non proprio così famose, come ad esempio quelle di Modern Mallard, tanto per citare un nome su tutti, ma con sia Wolf che Altar Eagle questo suono diventa estatico, pur avendo appunto queste caratteristiche piuttosto brutali anche nel trattamento del suono e delle registrazioni. Forse è anche questa la grande fascinazione che provocano queste musiche così urticanti per alcuni aspetti, ma anche così ammorbanti, meravigliosamente ammorbanti nel loro essere trasognate tra incubo e sogno surrealista, si potrebbe dire. E tra I Wolf, Ethenor, Ensemble Economic, X04, Factums, che sono un po' le novità insieme ai grandi, insomma, Alan Vega e Marco Hurtado, sicuramente dentro e anche in modo insomma piuttosto puntuale, così definire, finire primitivi di nuova generazione o di nuova sensibilità, Pocahontas e Robedor, ma d'altronde mi dovrei scusare di vari miei insomma parole o parolacce inglesi che non è che riguardano molto quella lingua, ma sono più invenzioni così create sul momento, perdonatemi. Pocahontas e Robedor che ci portano verso la fine di questa trasmissione di 451 con uno dei loro excursus dentro la follia annerita, fuliginosa di Robedor e un primitivismo tutto vissuto dentro un sogno psichedelico invece di Pocahontas, con anche un mondo tutto pitturato, tutto colorato in maniera estrosa che va chiaramente a impattare anche con i loro video decisamente primitivisti. Pocahontas quindi insieme a Robedor. scivolamento in un mainstream di quelli infernali, da girone della morte dantesco, girone appunto che ci riporta Pocahontas, non Pocahontas come ho detto prima, è tutt'altra faccenda quella, insieme a Robdor, altri catastrofisti che veramente ve li raccomando per nottate di quelle infinite da incubo che vi riportate anche magari appresso per qualche giorno. Quindi se volete veramente un bad trip finale, Robdor, che in questo caso ammorbano anche le musiche di Pocahontas, che già di loro insomma si nutrono di asperità, però più sul versante psichedelico, coloristico, folle. Invece con Robdor la faccenda s'annebbia, se non addirittura proprio si annerisce in maniera insomma forte e decisa, con una delle loro escursioni di matrice insomma Dark Drone, ma forse per in questo caso si può anche insomma tirar fuori forse un genere non ancora definito tale, come il lament. Non so neanche appunto come trattenere questa furia iconoclasta di Robdor. Robdor che insieme a Pocahontas fanno finire questa sera 451 frammenti sonori, primitivi di nuova sensibilità, sonorità che vanno a cercare un azzeramento musicale per ricreare o semplicemente per ritrovare un senso selvaggio e barbarico a un nuovo modo comunque di trattare la materia sonica. X04, Factums, Chrome, Marc Hurtado e Alan Vega, Savage Republic insieme a Economic, Ethenor, Alta Rigola, Eulf e ancora Pocahontas e Robdor in sottofondo per questa nottata di 451 in compagnia di Max Macchia e non solo. Poi prima o poi svelerò insomma le carte in tavola per questi ospiti che aleggiano, che non sono i fantasmi, anche se i sottofondi potrebbero portare anche a quello. Io vi rimando a domenica prossima, non si sa ancora se per uno speciale o comunque qualcosa che speriamo insomma susciti il vostro interesse come minimo. Io vi saluto, una buona nottata da Max Macchia e alla prossima di 451 frammenti sonori. Ricordo ancora il blog 451frammentisonori.noblogs.org, tra l'altro salutando anche il nostro collaboratore informatico, il nostro pistolatore digitale, come si potrebbe dire insomma qua a Bologna, ovvero il nostro Lorenzo Albano. E dopodiché veramente ho finito. Ciao.